Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Arganti e Traghettatore, bentrovati. Vi siete mai chiesti come sarà il mondo nel 2030? Sicuramente sì, tutti i giorni ci capita di porre la fatidica domanda. Ci sono anche altre angolature di visuale, per esempio quella di una mega azienda multinazionale che nella sua attività di responsabilità sociale se l'è chiesta e si è inventata una competizione che tra l'altro coinvolge 14 paesi europei e 5 delle regioni Asia-Pacifico. L'azienda è la Henkel, siamo al telefono con Francesca Stefanini che è direttore delle risorse umane della Henkel Italia. Ovviamente l'iniziativa si chiama Business Game. Francesca Stefanini, buongiorno. Che cos'è Business Game? Dunque, anche l'Innovation Challenge è il nome dell'iniziativa. È il Business Game, che come lei diceva precedentemente è stato lanciato circa in 20 paesi del mondo, che porta gli studenti delle migliori università a confrontarsi con i colleghi provenienti dai diversi paesi. Il tema di anche l'Innovation Challenge, come dice il nome, è l'innovazione. Proiettati nello scenario quindi del 2030, gli studenti dovranno inventarsi un nuovo detersivo, un nuovo adesivo o anche un prodotto cosmetico che soddisfi le esigenze dei consumatori, ma soprattutto che abbia spiccate caratteristiche di sostenibilità. Quando dice inventarsi questi prodotti, lei si riferisce al packaging, ai contenuti, alla funzionalità o a tutto forse? A tutto, può essere il packaging, può essere il prodotto, può essere la funzionalità, può essere la stessa la tecnologia utile allo sviluppo del prodotto stesso. Diciamo subito che la scadenza della presentazione di questi progetti è lunedì e domani. Che cosa c'è in palio per chi vince questo business game? Concretamente il vincitore della finalissima avrà un biglietto per un viaggio intorno al mondo e un voucher del valore di 1.000 euro, però io penso che la vera opportunità di anche l'Innovation Challenge è dare la possibilità agli studenti di mettersi per un giorno nei panni del manager, mettersi alla prova, presentare il proprio progetto, confrontarsi con il mondo dell'azienda e quindi iniziare a intuire anche in un contesto di gioco, in un contesto artificiale, cosa vuol dire lavorare in un'azienda. Senta, questa è la prima edizione del Business Game? No, è la quinta edizione. Quindi negli anni precedenti avete avuto modo già di tastare il polso di quello che questi giovani immaginano essere sostenibilità e come la interpretano. E che cosa avete scoperto di particolare in questi anni? Ma se è vero che l'attenzione da parte dei consumatori in generale nei confronti della sostenibilità è sempre molto alta, io credo che lo sia, non lo credo soltanto io, attestato da ricerche e dalla testimonianza, dalla conoscenza diretta che abbiamo avuto con i giovani, io credo che lo sia sempre di più anche per le nuove generazioni. Sostenibili per noi in concreto vuol dire fare di più con meno, cioè incentivare quei comportamenti e sviluppare quei prodotti, quei processi che offrano prestazioni crescenti consumando meno risorse. Bene, benissimo, grazie, è molto chiaro. Ci sentiamo sicuramente per capire poi che cosa è venuto fuori dal Business Game. Grazie a Francesca Stefanini. Grazie a lei, buongiorno. Andiamo adesso su un tema che riguarda le persone dal punto di vista fisico, parliamo di obesità. Medici non profit anti-obesità è una iniziativa, non profit l'avete sentito, di un'associazione e soprattutto di un sito che si chiama bm-association.it. I pazienti ovviamente obesi potranno contattare un network di 50 esperti, pensate, e poter quindi affissare un appuntamento per una visita gratuita. Perché Milano a quanto pare, secondo una recente statistica, è una specie di capitale degli obesi. Il 40% della popolazione in sovrappeso e addirittura il 10% ha ormai sorpassato la soglia dell'obesità. Restiamo sul tema del no profit. Il bello che fa bene agli amici dei bambini è un'iniziativa ormai rituale ogni anno in prossimità del Natale. L'associazione Amici dei Bambini, siamo alla 10ª edizione, propone di fare shopping in via Monte Napoleone dal 7 al 22 dicembre. Questa iniziativa quindi è già in atto da qualche giorno. Si comprano oggetti, si contribuisce ad aiutare la causa degli amici dei bambini. È tutto per questa puntata di Ferribot, @radio24.it per le vostre segnalazioni. Su Facebook andate su Mi Piace, la pagina Ferribot-Radio24. Grazie ad Anita Panizia in redazione e a Pietro Lacorte in regia. A risentirci.